Come Alleanza Verdi Sinistra abbiamo posto il tema della casa un po' anche al centro, infatti insomma l'assessorato è del nostro Giovanni Paglia e la discussione da inizio mandato è stato quali sono i delle regioni sul tema della casa, quindi si è fatta una riflessione su quali elementi fossero diciamo nelle nostre competenze, abbiamo lavorato a una norma urbanistica che rientra pienamente in quelle che sono insomma le cose di cui la regione si occupa, quindi lavoreremo una norma che dà ai comuni il potere di istituire delle percentuali limitate di affitti brevi come destinazione d'uso. Già come facciamo ovviamente in una città, c'è un tot numero di negozi, un tot numero di case, un tot numero di attività produttive, rientra nelle pianificazioni dei piani urbanistici generali, come regione nella, diciamo, nel norma urbanistica diciamo esisterà anche una destinazione d'uso a affitti brevi in modo che possa essere regolata nelle quantità a seconda dei quartieri, delle strade o addirittura di un palazzo. Si può decidere che un comune potrà decidere che un palazzo che magari ha un interesse anche architettonico particolare eccetera può avere una certa percentuale di appartamenti destinati all'affitto breve mentre altri devono rimanere residenziali. Come funziona? C'è una sorta di licenza che poi appunto chi è interessato a trasformare il proprio alloggio in affitto breve turistico dovrà sottoscrivere? Come funziona? Sì, è la destinazione d'uso già oggi, no? Immaginiamo, io non posso abitare ad esempio in un negozio, no? Se un immobile è classificato con la destinazione d'uso di attività commerciale non ci si può vivere, se però ha le caratteristiche per cui ha abbastanza finestre, l'altezza giusta, i servizi eccetera per diventare una casa, è il caso di alcuni uffici, da destinazione d'uso a ufficio decidiamo che ci facciamo un'abitazione perché ci sono le caratteristiche, devo andare agli uffici comunali a chiedere il cambio di destinazione d'uso, questo cambio ha un piccolo costo e soprattutto deve essere consentito perché deve rientrare nella pianificazione generale, quindi c'è un doppio passaggio, diciamo, prima vedere se si può fare e poi comunque fare una procedura. Quindi i comuni non sono più inconsapevoli perché noi ad oggi non sappiamo nemmeno quali abitazioni sono abitate dalle persone, quali hanno l'affitto breve perché dal punto di vista comunale se non risultano registrati i contratti d'affitto è un'attività che non passa, no? Dai comuni quella dell'affitto breve. In questo modo qua c'è una classificazione, quindi c'è anche modo di monitorare il fenomeno. Aspetto molto importante. Questa proposta di legge quindi potrebbe lavorare in sinergia in modo complementare rispetto al piano casa da 300 milioni annunciato dalla regione? Sì, il piano casa è un altro elemento che abbiamo portato avanti, sostanzialmente si dà la possibilità di azzerare lo sfitto in quel vasto patrimonio di case popolari che noi abbiamo che sono in cattive condizioni, non sono abitabili e quindi sostanzialmente non sono a disposizione delle persone, ma i comuni non hanno i soldi per ristrutturarle perché l'abbiamo visto anche a Bologna, insomma i costi di ristrutturazione si sta procedendo a, no, a ristrutturare decine di appartamenti, ma è un'attività molto lenta e molto onerosa e molti comuni non hanno la possibilità di farlo, quindi in questo modo la regione si offre diciamo di prestare i soldi per la ristrutturazione di questi appartamenti con il piccolo compromesso di trasformarli da edilizia popolare a edilizia sociale, quindi a un canone comunque molto basso, accessibile alla fascia grigia che avrebbe un reddito, un salario per pagare un affitto, però un affitto normale, non i prezzi a cui purtroppo il mercato ci ha abituato e che spesso non sono accessibili per le persone normali. In questo modo, con questo piccolo canone calmierato, si rientra diciamo dall'investimento della ristrutturazione e questo ci consente di rimettere su un mercato calmierato e sostenibile centinaia di appartamenti di case popolari che oggi sono inutilizzabili e quindi di fatto non sono a disposizione delle persone. Anche in seguito a un articolo di stampa, tornando alla legge, c'è qualcuno che ha storto il naso rispetto a un passaggio che prevederebbe che edifici pubblici possano essere messi sul mercato degli affitti brevi in caso di deficit alberghiero. Ti chiedo di spiegare questa cosa. Sì, in realtà è una norma che specifica una cosa che è già possibile sulla legge. Gli usi temporanei, cioè si possono stabilire degli usi temporanei necessari a regolamentare il mercato. La legge noi dobbiamo immaginare non esiste solo per Bologna, la regione Emilia-Romagna è molto grande e mentre Bologna e anche altre città soffrono dell'eccesso di Airbnb e di conseguenza di case sottratte al mercato degli affitti residenziali, ci sono invece territori, le aree interne, territori a rischio spopolamento, aree più a vocazione turistica come alcune sulla costa, dove in realtà ci sarebbe bisogno di incentivare un po' di turismo turismo, diciamo, per ravvivare delle economie. In quei casi ci sono enormi stabili abbandonati che potrebbero, diciamo, essere riqualificati avendo questa funzione laddove aperta da alberghi, che non è certo il caso di Bologna, non è sufficiente, diciamo, e quindi questo è la ratio di quella norma, perché dobbiamo immaginarci che quella norma va attuata anche in contesti che sono molto diversi dalla nostra città.